vero che non funziona, sei tu che non sai farla girare bene. Sì, in la effetti, ruota. Forse ma bene, è senso capito? Orario o antiorario? Ma è in senso quello che vuoi. Nel senso che poi alla fine l'importante è che faccia un bel giro, bello, capito, vigoroso. Dai, tipo... gira sta ruota. Così. Di Elica, no? Bello, bambini. Elica. Una delle grandi verità del mondo è che l'elica è sempre destrorsa. Sì, come la nostra ruota. Destrorsa. Sì, vabbè, ma questi bambini... L'orso, allora, qui se parliamo di anatomia, di storia naturale... Ma no, ma forse al massimo è stele, l'orso maggiore, l'orso minore, no? Tu destrorsa, vabbè, ma io direi che invece la E deve farci pensare delle parole di attualità, qua siamo semigiornalisti, quindi è una trasmissione semigiornalistica, quindi è come ecologia o come energia, bambini. Troppo vago. Troppo vago. Allora facciamo una cosa specifica come l'espatrio. E come espatrio? Ci sono almeno tre motivi per cui parlare dell'espatrio. Uno è perché siamo vicini alle elezioni. Ogni volta che ci sono le elezioni gli italiani dicono: se vince quello, se vince quell'altro, io me ne vado. Va bene. Secondo è la fuga dei nostri talenti. Tutti i nostri studenti migliori se ne vanno all'estero a lavorare. Sì, fuga dei cervelli, del Piero, eccetera. Terzo, l'espatrio dei capitali francesi che se ne vanno in Russia. Vedi Depardieu e la Bardot. Capitalisti più che i capitali. Anche i capitalisti. Depardieu è presente, bambino Alberto? È Obelix, ecco, no? Obelix adesso girerà i prossimi film in Russia perché è andato via dalla Francia. Come si fa? Obelix e lo zar. Oppure... Obelix contro Dracula. No, ma la Russia, la Russia. La russa. La russa non si può dire. No, siamo in par condicio. Esodati. No, lascia stare la Fornero che non è il caso. No, non c'entra, no, con Depardieu e la Bardot non c'entra. Non c'entra, anche se i motivi sono simili, insomma. Beh, la Bardot per via degli animali, non lo so, i diritti degli animali che in Russia sono... Vabbè, c'è Depardieu, se n'è andato in Russia per soldi, per le tasse. Ma sì, insomma, 75% di quello che lui guadagnava sarebbe stato dato a Hollande. E allora lui ha preso, ha messo lo vestito migliore... Anche i di tre buon umore. Vestiti migliori, perché tre ne fanno uno, uno legato all'altro, e è andato lì anche con l'umore migliore a dire a Hollande che se ne andava. François, François, moi je suis venu te dire que je m'en vais. Canzone. Je suis venu te dire que je m'en vais. Sono venuto a dirti che me ne vado. Ho andato lì, ma chi è di persona? Et là, on est pour... E le tue lacrime non cambieranno niente. Sì, Depardieu che è andato a dire Hollande, non pago più le tasse qua. Poi cita anche Verlaine, i poeti. Beh, certo, ma lui è Gainsbourg. Cioè, ma non è Gainsbourg, è Depardieu questo. No, ma è Gainsbourg. Ah, è Gainsbourg. Eh sì, sta zitto, va che è Gainsbourg. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'à son éveil. Des adieux à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais ti amavo, je suis venu te dire que je m'en vais. Ma senti qua Hollande come piange. Tes sanglots longs n'est pour rien changer. Piange, piange proprio. Comme dit si bien Verlaine, on m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent personne n'est là. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Triste, eh? Sì, è triste, ma qui piange Hollande perché viene abbandonato da un contribuente, insomma. Sarà... chi era questo qua? Era Gainsbourg con non lo so, chi è che piangeva? Può darsi la Catherine Deneuve o Brigitte Bardot, che erano sempre presenti. Brigitte Bardot. Dicevo che il contribuente grasso se ne va in tutti i sensi e Hollande piange, però bisogna dire che è molto più triste la situazione di quello che espatria. Anche Depardieu alla fine arriva a Mosca, sì, pieno di soldi, va bene. Però poi alla fine farà, come tutti gli espatriati, finirà in un bistrò francese, finto francese, lì in mezzo a tutti gli espatriati francesi in Russia, a guardare le partite della Serie A, della Ligue A, a commentare domenica in francese. Domenica in francese, esattamente come fanno gli italiani in America. Che tristezza. Sì, sì, vabbè, sì. Ma l'espatrio, sappiamo, è una cosa triste, vero bambino Alberto? Tu cosa hai capito dell'espatrio? Beh, allora, l'espatrio... deriva da expatriam. Bravo. Cioè sì, c'è una patria prima. Ma no. Poi un'altra patria. Non una ex patria. No, vabbè, sì, anche vuol dire fuori. Dalla parte. E poi non dobbiamo fare cosa... lezioni di latino, al pomeriggio, che no, palle. Così, sì. Allora. Etimologia. E poi so anche cosa vuol dire. Esperienza di vita. Oh, ecco, è anni che minacciano di volersi andare via, no? I tuoi genitori. Perché i miei genitori comunisti. Sì. Sono anni che hanno paura che rivinca sempre il piccolino, no? Quel tipo piccolino, sì, che... Lui, che va bene. Capo, va bene. Ma ha vinto già due o tre volte, quattro, e infatti, non so. Infatti, ogni volta mio padre... questa volta è la volta buona. Cioè, andiamo di qui... Basta. Poi ogni volta niente. Stavolta pare proprio che sia tutto fatto. Documenti, tutto, visti. Sì, ma stavolta non vince. Dai. Vabbè, stavolta andiamo in un paese modello, altro mio padre. Cioè? La Corea del Nord. Ma come la Corea del la Nord? La Corea del Nord. Ma no, ma bambino Alberto. È un posto terrificante. Ma ti rendi conto? Mi sono informato su internet perché ho chiesto a mio papà, tu non ti preoccupare che lì i bambini crescono come devono crescere. Cioè, e lì ti sei preoccupato. Sì, lo so, andiamo a informarci un po', magari c'ho tutti... Invece no, ho guardato, bambini, giochi di bambini, giocano con l'aquilone, il salto alla corda, la trottola, il volano. Ho capito, ma almeno sempre badminton. Sono giochi, badminton. Sono sempre, giochi che sempre cioè meglio della roulette russa. Insomma. Sotto andare a vedere sull'enciclopedia, cosa vuole dire? Quei videogiochi non se ne parla, la televisione non gliela fanno vedere. Vabbè, ma un certo po' che no. È un tipo radical chic, sono un po' radical ma chic. Ma che radical chic? Lì i capelli te li tagliano quando vogliono loro. Loro decidono il giorno martedì. Ora dei capelli, giorno dei capelli, vai. Vabbè, via, ma dei insomma capelli. È tutto più facile. Ma che più fatti? Vestono io non loro. Riesco mai a trovare il tempo di andare dal barbiere. Magari, infatti. Vabbè, non ti devi neanche inchinare ogni angolo di strada, perché lì c'è pieno di queste fotografie, di queste immagini di questo uomo che deve essere un re, un imperatore dell'antichità. Certo, no. E tutti si inchinano. Sì, certo. Devono inchinarsi, se no c'è la polizia segreta che dice: "Uè, tu non ti sei inchinato?" E no, perché c'è. Uè, allora! E poi non è mica solo questo. La mattina e la sera bisogna fare l'alza bandiera. Già presentarsi il piazzale enorme, tutto marmo, e non si vede niente, tutti vestiti col completino, grigio, pantaloncini grigi, giacca grigia senza collo, camicia senza collo, cappellino. Alza bandiera, l'alza bandiera. Non è che devi guardare basta, ti fanno anche cantare l'inno nazionale. Beh, per forza, tutti gli alza bandiera. È obbligatorio, se non tagliano le mani. Ma... infatti oggi ho imparato. L'inno? Sì, l'inno coreano, la memoria. E per forza, qui è la vita o la morte, no? Allora, ho scelto la vita per adesso. A chi mumpinara i canza, un gume ciavondo caduca, samcioli arunda una eccio guk, panna maio nora rioxa, e chalan han munguaro charanan. E ricordatevi che Mogmva Mam Tapacio Iccio Son Kiri Pattuse Pimpi Ripettannuse Pattuse con la I.